L'iscrizione sulla croce. Subito dopo la mia conversione, la felicità più grande è stata quella di poter leggere e comprendere la parola di Dio. Ma la gioia della lettura a volte era disturbata da un particolare. Trovavo in essa delle contraddizioni, soprattutto nei Vangeli. Ricordo che un giorno lessi l'Evangelo di Giovanni e notai che quando Gesù ebbe moltiplicato i pani, alla fine avanzarono 12 ceste. Più tardi, leggendo l'Evangelo di Marco, considerai che in seguito alla moltiplicazione dei pani operata da Gesù, le ceste avanzate erano 7. Per me era una contraddizione, ma problemi del genere andavano via via risolvendosi con una costante lettura della Scrittura. E ben presto mi resi conto che Giovanni e Marco narravano 2 miracoli diversi. Ora posso anche sorridere per questa mia ignoranza, ma leggere la Bibbia col continuo dubbio che essa contenga delle contraddizioni non permette di riceverne il giusto beneficio. Così, per i primi anni, l'unico modo che mi consentì di proseguire a leggere la parola di Dio tranquillamente fu quello di accantonare i problemi in fiduciosa attesa che fossero in seguito risolti. Avere un simile atteggiamento è saggio, altrimenti nessuno potrebbe mai leggere la Bibbia. Se però un problema diventa un vero ostacolo, occorre risolverlo. Fu così che un giorno, nel leggere i Vangeli, scopersi quella che per me era la più grande contraddizione che avessi mai trovata. Essa era costituita dalle diverse iscrizioni scritte sulla croce di Gesù, riportate dai 4 evangelisti. Avevo trovato l'ostacolo per il quale non mi era più possibile leggere serenamente la parola di Dio e non ero più libero di predicarla. È normale avere dei dubbi, è comune a tutti leggere e porsi degli interrogativi, ma quando un dubbio inizia a rodere come un tarlo, quando non lascia dormire tranquilli, quando leggi la parola di Dio e la tua mente è continuamente governata da un interrogativo irrisolto, allora sei posto di fronte ad un bivio. È giunto il momento di fare una scelta. La mia scelta era ritenere la parola di Dio soggetta a contraddizioni, o ispirata da Dio parola per parola e quindi degna della massima fede. Una scelta non da poco, perché da essa dipendeva la qualità del mio futuro, il mio rapporto con Dio. L'iscrizione posta sulla croce al di sopra del capo di Gesù è la seguente. Nel Vangelo di Matteo troviamo scritto: questo è Gesù, il re dei giudei, 27:37. Nel Vangelo di Marco, il re dei giudei, 15:26. Nel Vangelo di Luca, questo è il re dei giudei, 23:38. E il Vangelo di Giovanni cita: Gesù il Nazareno, il re dei giudei, 19:19. Ero abbastanza confuso. Non riuscivo a convincermi che fosse una questione di interpretazione, non poteva certo trattarsi di qualcosa di opinabile. Una scritta è un fatto oggettivo, non può essere soggettiva come un'affermazione. Quando Gesù disse che Erode era una volpe, possiamo dare varie interpretazioni alla parola volpe. Ma una scritta non può essere alterata nella sua essenza da vari punti di vista. O era scritto in un modo o in un altro. O era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei, oppure solamente il re dei giudei. Chi aveva ragione? L'evangelista Matteo, che mette il nome di Gesù, Marco, che ha la scritta più breve, Luca, che non ha il nome di Gesù, oppure Giovanni, che ha la scritta più lunga. Poiché ero molto giovane nella fede, mi consigliai con alcuni fratelli più maturi, ma non ebbi nessuna spiegazione convincente. Ne parlai con altri più anziani, con missionari, ma nessuno sapeva darmi una risposta. Infine, qualcuno azzardò una spiegazione. Poiché la scritta, secondo l'evangelista Giovanni, era in ebraico, in greco e in latino, 19:20, le differenze derivavano dalla traduzione. Ma io non ero per niente soddisfatto. È vero che nel tradurre una frase in varie lingue ci possono essere alcune differenze, ma non possono cambiare il testo di fondo, poiché il problema non mi dava pace e, non sapendo più dove rivolgermi, invocai il mio Signore pregando: Signore mio Dio, mi trovo in grosse difficoltà perché ho dei dubbi in merito all'ispirazione della tua parola. Se tu mi risolvi questo problema, io non dubiterò mai più dell'ispirazione della tua parola. Non passò molto tempo che egli mi esaudì e, senza rendermene conto, mi fu rivelata la più elementare regola per una corretta comprensione della parola di Dio. L'armonia scritturale. Infatti, per comprendere un testo biblico come del resto ogni altro testo, occorrono vari fattori. Occorre avvalersi del lato storico, culturale e linguistico. È necessario avere fede, studiarla con impegno e accettarla con sottomissione. Occorre tener conto delle imperfezioni scritturali, saper distinguere le parole della scrittura, guardarsi da interpretazioni che siano il frutto di preconcetti personali o comuni. Con queste premesse ho letto l'iscrizione sulla croce di Gesù e ho visto la meravigliosa armonia della parola di Dio. Chi aveva allora ragione della scritta sulla croce di Gesù? L'evangelista Matteo, Marco, Luca o Giovanni? Nessuno dei quattro e tutti e quattro. Cosa c'era scritto allora sulla croce? Sulla croce c'era una scritta della quale ogni evangelista ne ha riportato una parte. Così, sulla croce di Gesù c'era scritto questo: e Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. I quattro evangelisti hanno dunque presentato quattro varianti della stessa frase. L'evangelista Giovanni precisa in seguito quanto segue. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Giovanni 19:19-20. La scritta con la condanna era di norma portato davanti al criminale lungo il tragitto verso il luogo dell'esecuzione, oppure appeso intorno al collo, e poi sarebbe stato fissato sulla croce, rafforzando in questo modo l'effetto deterrente della punizione. Tutto il popolo, quindi, lesse l'accusa di Gesù. I capi dei sacerdoti naturalmente non volevano che la scritta posta sulla testa di Gesù suonasse come un'affermazione, ma volevano che fosse chiaro che Gesù moriva perché aveva detto di essere il re dei giudei, perciò protestarono con Pilato perché l'iscrizione fosse cambiata, ma Pilato rifiutò. Forse perché la sua volontà era quella di proclamare che Gesù moriva in quanto re dei giudei. Alcuni studiosi fanno notare che l'identificazione di Gesù come il re dei giudei suonava ironica e sarcastica e che Pilatos se ne servì per fare l'ultima macabra rivincita sui capi sacerdoti, i quali lo avevano spinto a forza di una posizione così difficile. Ma nel turbine di questi malfatti vediamo la sovranità di Dio che usa la malvagità degli uomini per compiere i suoi piani. Mentre Gesù apparentemente moriva nella più profonda umiliazione e nella più totale apparente sconfitta, in quel momento stava trionfando sulle autorità e principati con un pubblico spettacolo, Colossesi 2:15, adempiendosi così ciò che è scritto. Anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode, e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Salmo 76:10. Qualcuno ha fatto notare che la scritta posta sulla croce al di sopra del capo di Cristo, l'accusa della sua condanna, era stata affissa in ebraico, in greco e in latino, di modo che tutti potessero comprenderle. Per i giudei di allora il greco non aveva alcun interesse, il latino naturalmente era solo per i romani, per la decima legione che distrusse Gerusalemme. Ma i giudei che si trovavano al cospetto della croce, ricorrendo alla tradizionale abitudine di cogliere le iniziali delle parole di una frase per formarne un'altra, si accorsero che tali iniziali in ebraico formavano il tetragramma sacro ed impronunciabile del nome di Dio. Il nome Santissimo, che i giudei non osavano neanche pronunciare, che riscrivevano con Hashem o con Adonaj, era lì, affisso al legno della maledizione. In quelle quattro lettere, Yahweh, molto probabilmente questa è la ragione per cui i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Ma Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. purtroppo. Ancora una volta, il cattolicesimo ha fatto un grossolano errore. Nelle raffigurazioni della crocifissione di Gesù, noi vediamo una sola scritta, posta sul capo di Gesù, con le iniziali sì di un tetragramma, ma un tetragramma latino, cioè I-N-R-I. Questo particolare devia il credente dal vero significato dell'iscrizione. Forse si è data poca importanza all'iscrizione sulla croce posta sul capo di Gesù. E del resto anch'io avrei fatto così se non mi fosse venuto il dubbio. Ma il fatto che tutti e quattro gli evangelisti l'hanno riportata significa che essa contiene un messaggio importante. Senza ombra di dubbio il messaggio dell'iscrizione intende far comprendere che in quel momento non stava morendo un uomo qualsiasi, o un buon uomo, ma era il figlio di Dio, fattosi carne che moriva per i nostri peccati secondo le scritture. Quando Paolo disse davanti agli anziani di Efeso che Dio ha acquistata la Chiesa col proprio sangue, Atti 20 e 28, o noi prendiamo una simile affermazione, come una battuta, oppure veramente sulla croce stava donando la propria vita a niente meno che il creatore della creatura, l'autore di ogni forma di vita, l'altissimo, l'eccelso. Nessun essere vivente si rese conto del dramma che si stava consumando sulla croce, mentre il creato diede un piccolo sussulto. E in questa profonda solitudine, aggravata anche dall'abbandono da parte di Dio, Gesù diede spontaneamente la vita per amore della sua creatura che lo aveva messo in croce, perdonando così tutti i suoi misfatti. Le parole possono essere portate via dal vento, ma una scritta rimane. La scritta «Questo è Gesù il Nazareno», il re dei giudei, non potrà mai più essere cancellata. Ormai ciò che è scritto. A noi non resta che guardare a quella croce, leggere ciò che ci è scritto e accettare che il re dei re abbia accettato spontaneamente tale immane sacrifico per darci l'opportunità di essere riconciliati con Dio. A noi la scelta. 197. Marzo 2005. Ellero.